che non abbia altra finalità che non l'espressione di se stessa e non abbia nessun padrone, ecco. Allora non c'è bisogno di macchiaggio, non c'è bisogno di essere fighi, non c'è bisogno di belle foto e quant'altro, bastano le note. L'apice del successo di Giovanni Allevi risale alla fine del 2008, quando il pianista fu chiamato a dirigere il tradizionale concerto natalizio al Senato. Ne nacque una polemica molto aspra, da una parte i grandi maestri d'orchestra italiani, dall'altra il giovane pianista, famoso per il look da adolescente e per un successo commerciale da stella del pop. All'indignazione del violinista Uto Ughi, Allevi rispose con altrettanto orgoglio. Uno scontro che sarebbe stato meglio evitare? No, no, è stata una polemica bellissima, bellissima. La mia risposta, ogni tanto me la vado a rileggere, devo dire, contiene una grande classe. Cioè, nel senso che non... ho resistito, ho controllato le passioni e ho cercato di esprimermi in una maniera molto, molto elegante. Anche perché quella polemica è importante, è stata molto importante, rappresenta uno scontro tra generazioni. Io a Uto Ughi voglio un bene dell'anima, ho un grande rispetto per lui, è un talento straordinario, non poteva dire diversamente da quello che ha detto. Perché è chiaro che un mondo totalmente cristallizzato, totalmente votato in maniera religiosa nei confronti del passato non può che vedermi come una minaccia, è ovvio. Non ho mai creduto all'idea, all'ipotesi dell'invidia, mai. E questa parola non è mai uscita dalla mia bocca in tutti questi anni. Credo piuttosto che sia una paura del cambiamento. Si è creato questa frattura generazionale, ci sono molti giovani musicisti che sono con me. Sì, lo rifarei, riaffronterei tutto. Usando le parole di Coelho, c'è stato un buon combattimento. Da parte loro molti colpi bassi, devo dire. Da parte mia e dei miei, il mio esercito, ecco, degli alleviani, questi sognatori che comunque, sì, fulminati dentro, va bene, però che cercano la poesia, che cercano la delicatezza, che si esprimono con grazia e con delicatezza. Ecco, da parte nostra c'è sempre stata una grande serenità. C'è anche un gruppo di nemici intermedi che ha molto apprezzato i suoi primi lavori e la sua capacità di semplificare la musica classica, ma allo stesso modo dando un proprio tono, un proprio elemento creativo, che pensano invece che gli ultimi album, da Joe in poi, questa semplificazione l'abbiano resa eccessiva. Ah no, questo è il grande classico dei miei detrattori, no, non sono critici intermedi, questi sono... la mia musica sta andando verso una complicazione in realtà. Si pensa che l'ultimo album, Alien, contiene la sonata in Mi bemolle maggiore, che è uno dei miei brani più complessi, così come il brano Evolution contiene 300 anelli, che è la mia sinfonia concertante per pianoforte orchestra, dove la musica raggiunge il massimo respiro, la mia musica e la massima complessità formale. Io non posso utilizzare le mie energie per difendermi e per difendere. Io devo scrivere musica, poi che cosa ne sarà non lo so, lo dirà il tempo. L'importante è che io continuo come un pazzo, come un ossessionato a seguire le mie note, a inseguire questa strega capricciosa che è la musica. Quello di Parigi è stato l'ultimo concerto di Alien. Possiamo fare un bilancio? In che direzione va la musica di Giovanni Allevi per il futuro? Beh, va verso un ritorno all'orchestra sinfonica. E ho finito da poco di comporre un concerto per violino orchestra. Sarà un lavoro molto complesso, richiederà del tempo, però il bilancio di questo tour europeo è bello. Cioè, io ho incontrato tanti tanti ragazzi, giovani artisti che mi si sono avvicinati, che hanno detto sì è questa la direzione. In fondo il rispetto e l'ossequio alla tradizione fino a se stesso non porta più a niente. Il mondo sta cambiando, il mondo è in evoluzione, allora si salva chi è sognatore e chi ha il coraggio di affermare il presente e di affermare la vittoria della creatività sull'ossequio. Ecco, allora evviva, va bene così. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo la nostra pagina di Facebook e il nostro gruppo potete chiederci l'iscrizione, Twitter, dove potete trovare tutti i giorni quotidianamente i temi del programma, poi la nostra mail controluceradio24.it, e su radio24.it trovate anche il nostro blog. L'ultimo blog è dedicato a Genova, le mille Genova senza giustizia. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.